Maestro, prego. Lei con quel tipo di canzoni in hit parade non ci va mica, perché in TV non c'è rubrica per cantautori rompiglioni. La penna facile ce l'ha, parli d'amore o di sottane, e allora sì che sfonderà. Questo è un mestiere da puttane. Caro dottore, come sta? Ricorda 12 anni fa, sia puttana e sfonderà, puttana sì, mamma mia. Sui marciapiedi della France mi sono fatto un'experience, adesso godo dei miei fans, ma come quando dico io. E per godere intendo dire, fare il torero oppure il toro, qualcuno deve pur morire, qui tra le luci ed il sonoro. Qui puoi tirare turche in faccia ai conformisti più cretini ed introdurgli dei concetti con vasellina di violini. Il palcoscenico, che bella cosa, cantare rosso su melodie rosa. Vieni a teatro e avrai di più, e metti un corno alla TV. Figo, figo, figo, figo, figo, oh! Però da 5 anni in qua che passi ha fatto lo stivale. Cantare la rivoluzione è diventato commerciale. Quali che siano i cliché che tu riversi sulle masse quando li stampi in 33, sono 5.000 più le tasse. Ma di parlare del prodotto mi son rotto e ti sei rotto, se ci tieni fatti sotto, i dischi miei li puoi rubare. Però vuoi mettere il teatro con te lì a mezzo metro, ed io che ti scarta dentro e tu padrone di fischiare. Infatti cerco sempre un occhio in cui poter ficcare il dito, ma non attacco il mio vagone a nessun treno di partito. Quindi se uscire dagli schemi non ti procura il mal di mare, con 4 tavole e 1 vela questo teatro può salvare. Il palcoscenico, che bella cosa, cantare rosso su melodie rosa. Vieni a teatro e avrai di più, e metti un corno alla TV. Il palcoscenico, che bella cosa, cantare rosso su melodie rosa. Vieni a teatro e avrai di più, e metti un corno alla TV. Da da da da da da.